Civiltà. I vini. Quanto vino produce ed esporta l'Italia? La produzione globale di vino è di circa 267 milioni di ettolitri. 170 milioni di ettolitri, cioè il 64% del totale, provengono dall'Unione Europea, il primo produttore al mondo. L'Italia è il primo paese esportatore per quantità. Infatti, l'Italia esporta in media 18 milioni di ettolitri l'anno e i principali mercati sono Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Canada e Giappone. Annualmente in Italia sono prodotti oltre 50 milioni di ettolitri di vino da circa 770.000 aziende e circa un terzo di questa produzione è destinata all'esportazione. La cultura del vino è cambiata nel tempo. In passato il vino è stato alimento. Oggigiorno è un prodotto di grande fascino. Per questo motivo, negli ultimi 20 anni, l'Italia ha vinificato sempre meno, ma sempre meglio. Questa tendenza è dovuta anche allo sviluppo della viticoltura in diversi paesi emergenti. A partire dagli anni 80, le cantine italiane sono state rinnovate sia nella tecnologia sia nella struttura, con i filari che vengono tracciati con il laser e la meccanizzazione del processo di produzione.